di ama bale bolo mama cho mama mbole di ama bale bolo mama cho mama mbole di ama bale bolo mama cho mama mbole di ama bale bolo mama cho mama na bayi muto na ya na bana ye ndito muto asibemba di ya ye Nabai muto na ya na bana ye ndito muto asibemba di ya ye Moledi ama mole bolo mama cho mama bolo iyo wo Moledi ama mole bolo mama cho mama iya ye ye Moledi ama mole bolo mama cho mama o amuna te o Moledi ama mole bolo mama cho mama Nananga na nongo la jibo wanyi Ndito mu pepe lemba sibeyi Nananga na nongo la jibo wa okuboyi Ndito mu pepe lemba sibeyi Bole di ama bole bole mama cho mama Bolo iyo wo Bole di ama bole bole mama cho mama Bole di ama bole bole mama cho mama Des populaire oh Bole di ama bole bole mama cho mama Esa no tam ne bola tete Na bodi no tete na biya yi Esa no tam ne bola tete Na bodi no tete na biya yi Bole di ama bole bole mama cho mama Bolo iyo wo Bole di ama bole bole mama cho mama Bole di ama bole bole mama cho mama Owa muna te o Bole di ama bole bole mama cho mama Bole di ama bole bole mama cho mama Bole di ama bole bole mama cho mama Esera Bole di ama bole bole mama cho mama Bolo iyo wo Bole di ama bole bole mama cho mama Iya ye ye Bole di ama bole bole mama cho mama Muna te o Bole di ama bole bole mama cho mama Iya ye ye Bole di ama bole bole mama cho mama Des populaire o Bole di ama bole bole mama cho mama Bole di ama bole bole mama cho mama Bole di ama bole bole mama cho mama Bole di ama bole bole